Radio 24 Reportage. I fatti del 2016. Radio 24 dalla parte delle donne. Riflessioni sul femminicidio di Annarita D'Ambrosio. E ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo forte. No. No. No? E perché no? Perché le femmine non ci possono andare. Perché le femmine non si picchiano. Pareciste una noche fría, como olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Nel mondo dei bambini le violenze non ci sono, si legge nel video bellissimo e pluripremiato del sito Fanpage. Non dobbiamo mai spegnere i riflettori su questo tipo di violenza, non dobbiamo farlo, anche se ci dicono che i dati sono in calo. Lo sono quelli delle violenze meno gravi, ci ha spiegato Linda Laura Sabbadini, pioniera della ricerca statistica al femminile. Sono tragicamente stabili i dati sui femminicidi veri e propri. C'è uno zoccolo duro della violenza, che è quello dei femminicidi e quello dello stupro, e su questo dobbiamo agire, ma c'è una diminuzione generale della violenza, questo è un fatto importante. Quello che va sottolineato è che c'è un clima sociale che è migliorato, di condanna sociale della violenza, e le donne si aprono di più, si attivano di più per cercare aiuto. Guardando le pagine di cronaca sembra quasi che il fenomeno sia un fenomeno recente, invece non lo è, in passato aveva forse delle forme diverse. Assolutamente sì, cioè il fenomeno non è recente, il problema è che noi abbiamo questa percezione perché se ne parla di più, quindi se ne parla di più nei giornali, se ne parla di più in televisione, e quindi abbiamo addirittura la percezione che sia in crescita. In realtà il fenomeno della violenza di genere contro le donne è un fenomeno che ha radici antichissime, è un fenomeno strutturale e dipende proprio dal fatto, dalla volontà di dominio e possesso delle donne da parte dell'uomo. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer. Consapevolezza che cresce con l'aumentare della violenza e scatta la richiesta di aiuto. 75 i centri antiviolenza in Italia, a cui si sono rivolte 15.000 donne, 3 chiusure negli ultimi mesi a Palermo, Napoli e Roma, e soldi stanziati alle regioni corrisposti solo in piccola parte. Manuela Ulivi, membro del direttivo dell'Associazione Nazionale dei Centri Antiviolenza, al microfono di Matteo Riberto. Il giochetto che si sta facendo con questi fondi in alcuni contesti è proprio quello di rimettere i fondi ad esempio sulla sanità piuttosto che sul servizio sociale, dove ci dovrebbero già invece essere l'impegno da parte delle pubbliche amministrazioni in questi contesti, per rafforzare i servizi più istituzionali e meno dare ai centri antiviolenza privati, che sono quelli su cui noi lavoriamo. E a Roma in ottobre ci sarà una grande assemblea e poi a novembre anche una manifestazione. Il 25 novembre è la giornata internazionale della lotta contro la violenza sulle donne, e noi pensiamo che saremo il 25 o il 26 sicuramente in piazza. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla salta el valor. A volte sono le donne che non sanno allontanarsi, più spesso sono gli uomini che non tollerano di essere lasciati. Il gesto estremo è solo l'ultimo atto di una relazione fatta di violenza, non solo fisica, che le donne non vedono o non vogliono vedere. Massimo Recalcati, psicoanalista, saggista e accademico, al microfono di Valeria De Rosa. Freud lo diceva a suo modo: non ho mai capito cosa significasse davvero essere una donna. Cioè, quando Freud diceva questa frase, metteva in evidenza il fatto che diventare un uomo è semplice, essere un uomo, essere un maschio è indossare una divisa fallica. Diventare una donna è più complicato, perché non esiste un modello uniforme dell'essere femminile, e quindi quando noi in psicanalisi parliamo di rifiuto della femminilità, questo rifiuto della femminilità riguarda certamente gli uomini, che di fronte all'enigma della donna possono rispondere appunto con la violenza, ma riguarda anche le stesse donne. Cioè è difficile per una donna essere una donna. donna. Allora, se prendiamo questo come presupposto, ci sono uomini che sembrano capaci di offrire alle donne una risposta all'enigma della femminilità. Come dire, tu non sai cosa significa essere una donna, te lo dico io. E dunque l'uomo si pone come una sorta di bussola infallibile che guida la donna a reperire la propria identità. Salvo che questa bussola poi si rivela essere molto spesso una bussola violenta, che in cambio di questa illusione identitaria in realtà esercita un vero e proprio maltrattamento permanente della donna. Educazione maschilista? Sì, racconta il vincitore del premio Strega, Edoardo Albinati, alla nostra Alessandra Tedesco. Il suo libro La scuola cattolica, in oltre 1300 pagine, traccia il profilo di una generazione, quella degli anni 70, cresciuta nell'orrore di fatti di cronaca che l'hanno profondamente segnata, come il massacro del Circeo. Così Albinati. Io ho vissuto proprio, i personaggi di questo libro, quasi tutti, vivono quell'epoca di passaggio in cui, diciamo così, i vecchi modelli virili andavano in pezzi. Quello vecchio non era più adatto, quello nuovo ancora latita, secondo me ancora non è stato trovato. Allora, quando si cresceva noi altri in questa atmosfera, penso che qualcuno, come poi è avvenuto, abbia pensato di restaurare violentemente un modello, diciamo, di prevaricazione, di sopraffazione. È un episodio di quella che io definisco una rappresaglia, cioè nel momento in cui l'onda dell'emancipazione femminile è al suo culmine, delle, diciamo così, guardie armate o delle minoranze violente ricordano sul corpo di alcune donne, ricordano a tutte le donne che il dominio rimane nelle mani del maschio, e comunque questo periodo di latenza si è inaugurato più o meno in quegli anni e ancora non è terminato. Una vez mano, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez mano, mi amor, por favor, no grite, que los niños duermen. Ci sono uomini che si fanno aiutare, e meno diffusa negli uomini la consapevolezza dell'errore compiuto, ma esiste a Firenze il CAM, il Centro Uomini Violenti. Teresa Trillò ha intervistato il suo coordinatore, Mario De Maglie. Questi 7 anni in cui siamo attivi si sono rivolti uomini di ogni tipo, sia di ogni fascia culturale che di ogni fascia sociale, avvocati, liberi imprenditori, operai, pensionati, contadini, filosofi, medici. Non c'è un kit di chi agisce violenza, perché questo è un fenomeno molto diffuso all'interno della nostra società. Come e perché gli uomini si rivolgono al vostro centro? Possono arrivare attraverso due vie: o attraverso degli invii obbligati, quindi sono giudici, assistenti sociali, tribunali, ma questi sono comunque gli uomini che arrivano da noi in minoranza, oppure la maggioranza di loro arriva volontariamente, perché se è successo un episodio di violenza più forte del solito e si sono spaventati. Possono essere intervenuti da polizie, carabinieri, gli stanno male e appunto sono preoccupati per il benessere dei figli, oppure la donna è andata via, andando via li ha messi in crisi. Quindi la loro motivazione principalmente è esterna, non credono di avere un problema con la violenza, ne vivono però gli effetti. Quali sono i risultati ottenuti? Noi possiamo ottenere risultati soltanto con gli uomini che hanno una buona motivazione. Riusciamo sicuramente a interrompere la violenza fisica nel giro di poco tempo, mentre per quanto riguarda la violenza psicologica il percorso è molto più lungo, perché faticano proprio a riconoscere il maltrattamento psicologico. Eppure siamo noi donne a crescere questi uomini violenti, sono figli nostri. Come insegnare a gestire correttamente il rapporto con l'altro sesso al proprio figlio? Qualche suggerimento lo ha fornito lo psicoterapeuta Alberto Pellai al microfono di Maria Piera Ceci. Il primo passo è l'esempio, quello che un uomo, un giovane uomo, un futuro giovane uomo impara in famiglia, lo impara soprattutto attraverso l'esempio dei papà, e quindi il messaggio ai padri è: stanno insegnando il codice maschile ai figli con lo sguardo, le parole e le azioni che ogni giorno gestiscono nelle loro relazioni familiari. Il secondo passaggio è aiutare i nostri figli a tollerare le frustrazioni. Di fronte al dolore di un bambino, accoglierlo, saper dare parole a quelle emozioni. Ti senti triste perché sei stato, per esempio, rifiutato, perché la bambina che ti piaceva tanto ti ha detto che non ha intenzione di mettersi con te. Non si può essere amati perché tu ordini ordini di essere amato. Si deve essere amati dentro a una relazione in cui si è d'accordo su quello che si andrà a vivere insieme. Per cui se lei non vuole, noi dobbiamo fare un passo indietro, il primo no di una lunga serie di no che probabilmente arriverà nella vita, in attesa di un sì che, quando invece viene detto, ti farà sentire qual è la bellezza di un amore corrisposto. Lì dove la ragione fallisce subentra la legge. Inasprire le pene può servire? Non basta, secondo l'avvocato Giulia Bongiorno dell'associazione Doppia Difesa Onlus contro la violenza di genere, fondata con Michelle Hunziker. Le abbiamo chiesto innanzitutto cosa rischia oggi un uomo che usa violenza sulla sua compagna. È un processo lunghissimo che spesso porta ad una pena che viene svuotata a seconda se si sceglie un tipo di processo, ad esempio il processo abbreviato, che ha degli sconti fortissimi di pena. Questa pena può essere ridotta di un terzo. Se poi merita le cosiddette attenuanti generiche, che vengono quasi sempre riconosciute, ci sarà un altro sconto di pena. Se finalmente arriverà in carcere, dopo aver scontato la metà della pena dimezzata, potrà già avere la semilibertà. Quindi abbiamo un regime processuale e sanzionatorio che a mio avviso è assolutamente debole e inadeguato. O si mette come priorità la ricerca di soluzioni, oppure abbiamo dei pannicelli caldi. Punto numero uno, ci vuole un ministero delle pari opportunità e contro le violenze, cioè un ministero con portafogli che si occupa di questo fenomeno. Dopodiché, da un punto di vista legislativo, dobbiamo creare, secondo me, una specie di piccolo binario autonomo di norme contro il femminicidio. Come esistono le norme contro la mafia, che hanno una serie di procedure particolari? Allora vorrei processi rapidi, vorrei sanzioni e non vorrei premi. Si può mettere per iscritto e fare un codice ad hoc con una regolamentazione speciale, vista la gravità del fenomeno? Secondo me sì. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.